24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Europa per Juncker, ora bisogna affrontare la questione crescita. L'annuncio nelle prossime due settimane è un dibattito approfondito sul rilancio economico. Il presidente dell'Eurogruppo e la cancelliera tedesca Angela Merkel determinati a mantenere Atene nell'area euro, mentre nel paese si vota di nuovo il 17 giugno. E mentre in Germania si protesta contro l'austerità, all'Aia è iniziato il processo Ratko Mladic per genocidio. Cinema al Festival di Cannes, 18 film patrocinati dal programma europeo MEDI. Benvenuti da Paolo Pancieri a questa nuova puntata di 24 ore in Europa. Secondo il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, è arrivato il momento di affrontare la questione crescita. Nelle prossime due settimane ci sarà un dibattito approfondito, ha detto al termine della riunione dei ministri delle finanze dei 17 paesi dell'euro. Juncker, peraltro, non si è sbilanciato sulla proposta del premier italiano Mario Monti di escludere dal conteggio dei debiti gli investimenti produttivi. Ancora, Juncker ha ribadito che l'eurozona è compatta nel voler mantenere la Grecia nell'eurozona. Dello stesso avviso anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, un'intervista alla CNBC. Noi vogliamo, ha detto, che Atene rimanga nell'eurozona. Sono determinata affinché ciò accada. Ma c'è da segnalare la ripresa della fuga di capitali dalla Grecia. Secondo il Financial Times Online, in due giorni i ritiri di fondi dai conti correnti hanno superato 1,2 miliardi di euro, pari allo 0,75% dei depositi totali. Nel frattempo la data delle elezioni politiche è stata anticipata al 17 giugno. Oggi il presidente greco Karolos Papoulias ha nominato il nuovo premier per il governo ad interim, Panagiotis Prikamenos, il cui nome in greco significa amareggiato, che dovrà condurre il paese al voto. Elezioni che si terranno il 17 giugno e che diventeranno un referendum sulla permanenza del paese nell'euro. Se dalle urne dovesse uscire una maggioranza favorevole all'austerity, non ci saranno problemi. Ma se invece dovesse vincere un fronte di sinistra radicale guidato da Syriza, come indicano i sondaggi, allora occorrerebbe rinegoziare il memorandum, cosa che il ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble rifiuta tassativamente. Intanto in due giorni sono stati ritirati 1,2 miliardi di euro dai conti correnti delle banche greche, sintomo di un nervosismo causato dalla grave instabilità del paese, che vuole restare nell'euro senza pagare però il biglietto dei conti in ordine. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Sole 24 Ore, Atene. E in Germania si protesta contro l'austerità anche in modo violento. L'opposizione all'austerità in Europa ha mostrato la notte scorsa un volto inquietante in Germania, dove un gruppo di estrema sinistra greco, finora sconosciuto, ha rivendicato un attentato contro Horst Reichenbach, il capo della task force europea incaricata di aiutare il governo di Atene a fare le riforme. A Potsdam, nei pressi di Berlino, l'automobile del funzionario tedesco è stata data alle fiamme e i muri della sua abitazione di famiglia imbrattati di vernice rossa. Intanto a Francoforte la protesta contro l'austerità e più in genere contro il capitalismo ha richiamato dimostranti un po' da tutta Europa per un programma di 4 giorni di manifestazioni attorno al grattacielo della Banca Centrale Europea, dove la polizia ha sgomberato ieri mattina l'accampamento che da diversi mesi occupava il prato vicino alla banca. Lo sgombero è avvenuto senza incidenti, ma oltre 5.000 poliziotti sono in stato di allerta fino a sabato. L'emergenza manifestazioni ha convinto la BCE a spostare fuori città un convegno sulla politica monetaria, dove il presidente Mario Draghi ha ribadito il no della banca all'uscita della Grecia dall'euro. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Si è conclusa la missione del Fondo Monetario Internazionale. L'Italia è sulla via giusta, ma la strada è ancora lunga. Non ho mai parlato di austerità. L'obiettivo è la crescita, ma il consolidamento dei conti pubblici resta una priorità per un paese che era sull'orlo del precipizio. Mario Monti lo ripete anche nella conferenza stampa al termine della missione a Roma del Fondo Monetario Internazionale. Secondo gli ispettori dell'FMI, in 6 mesi l'Italia ha fatto progressi enormi, ma approvando le riforme strutturali il suo PIL potrebbe crescere di 6 punti. Non è il momento di abbassare la guardia, concorda il Presidente del Consiglio. L'impegno per la gestione rigorosa delle finanze pubbliche e le riforme strutturali non devono essere allentati. Le debolezze da rimediare sono molteplici. Non è il momento di allentare la presa. Secondo Monti, le prossime settimane saranno decisive per il futuro del nostro paese e anche dell'Unione Europea. All'Europa, spiega, non chiediamo meno rigore ma più attenzione alla crescita. La situazione della Grecia e l'andamento dell'economia dell'eurozona preoccupano gli Stati Uniti e saranno fra i principali punti in agenda del prossimo G8 di Camp David, annuncia poi il Premier all'indomani del colloquio telefonico con il presidente americano Obama. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Borse europee contrastate, altalenante anche lo spread tra BTP e Bund. Ha chiuso in area 435 punti dopo un massimo a 457 e un minimo a 425. Borse europee in preda alla volatilità, mentre gli investitori si interrogano sul futuro dell'Europa, adesso che sta aumentando la probabilità che la Grecia esca dall'euro a seguito della necessità di nuove elezioni, fissate il prossimo 17 giugno. Così gli indici sono andati sulle montagne russe, risentendo della lotta tra pessimisti e ottimisti, con quest'ultimi che scommettono anche su eventuali nuove mosse da parte della Banca Centrale Europea. Milano ha chiuso le contrattazioni in calo dello 0,21%, penalizzata dall'elevato livello sul quale si è mantenuto lo spread, 435 punti base. Dopo il ribasso di ieri, hanno perso un ulteriore 3,9% le MPS, nonostante le rassicurazioni fornite dall'amministratore delegato Fabrizio Viola nel corso della conference call. Il mercato però non ha apprezzato i conti del primo trimestre. Per conto sono stati proprio i numeri dei primi tre mesi del 2012 a spingere all'insù sia le BPM più 4,3%, sia le Intesa San Paolo più 2%. Sono balzate in avanti le Finmeccanica più 4,5% nel giorno dell'assemblea sull'ipotesi che la francese Thales possa entrare nel capitale. Fiat ha guadagnato l'1,1% a dispetto che lo scorso aprile le vendite di nuove auto in Europa siano andate peggio rispetto a quelle generali. Se il mercato ha accusato un calo delle immatricolazioni del 6,5%, il lingotto ha registrato un ribasso dell'11,3%. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Ora il processo Ratko Mladic in corso all'AIA. La prima udienza è stata aggiornata oggi con la requisitoria del sostituto procuratore Dermot Groom. Secondo l'accusa, il processo potrebbe durare 3 anni. Prossima udienza il 29 maggio con il primo testimone dell'accusa. 20 anni dopo lo scoppio del conflitto nell'ex Jugoslavia, la Corte Penale Internazionale processa il boia dei Balcani. È partita oggi all'AIA la prima udienza contro il 70enne Ratko Mladic, capo delle truppe serbe accusate della pulizia etnica contro bosniaci musulmani e croato-bosniaci. Su Mladic pendono 11 capi d'accusa, tra cui 2 imputazioni di genocidio per il massacro di Srebrenica nel 95 e per l'assedio di Sarajevo partito nel 1992. Mostreremo le prove della sua colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio, ha affermato il procuratore Dermot Groom. Per risposta, l'ex militare serbo in aula si mostra sarcastico, sia verso le famiglie delle 8.000 vittime di Srebrenica che assistono al procedimento, sia verso la corte. Nessun segno di pentimento, nessuna ritrattazione. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sin qua la cronaca, adesso in studio con noi Gigi Donelli per fare una piccola riflessione. 20 anni sono passati, sono tanti, ma non è mai troppo tardi, no Gigi? Assolutamente no, 20 anni esatti da quando appunto Mladic ottenne il comando delle operazioni della Jana, l'ex esercito jugoslavo, su Sarajevo. La sua prima iniziativa fu il bombardamento delle strade d'accesso alla città per iniziare quello che sarebbe stato il più lungo assedio dell'Europa moderna. 20 anni che cascano, e a volte la sorte è davvero bizzarra, tra i due turni delle presidenziali in Serbia. Insomma, questo processo che si svolge lontano in un paese appunto del nord Europa tocca direttamente gli spiriti, gli animi dei Balcani. Il presidente Tadic, ricandidato per la terza volta, il suo avversario Nikolic si accusano vicendevolmente di brogli, ma intanto la tensione all'interno del paese monta proprio intorno alla memoria di questi 20 anni. Ricordate, Mladic è stato dato di fatto dal governo serbo un anno fa all'Unione Europea, una consegna che ha aperto la strada all'accesso della Serbia all'Unione Europea. Quindi tutti questi temi si legano strettamente. Sulla figura di Mladic ci sarebbe poco da dire. Mladic è un assassino, è un uomo che come i gerarchi nazisti risponde sistematicamente: ho ricevuto degli ordini. Eppure insomma le prove sono enormi. Il problema è che alcuni milioni di serbi in realtà lo ritengono un eroe, e quindi bisogna tenere conto di questa realtà e di questa complessità. Dopo Roberto Vittori e Paolo Nespoli, la Stazione Spaziale Internazionale accoglierà nel 2013 un altro astronauta italiano, Luca Parmitano, per la prima volta nello spazio. Per l'occasione, l'Agenzia Spaziale Italiana lancia il concorso Disegna e designa la missione di Luca Parmitano per nome e logo italiani ufficiali. Il termine è il 14 giugno, in palio la possibilità di seguire da vicino la missione. Una notizia per i tanti golosi di dolci. Il nome Kinder distingue i prodotti della Ferrero e quindi non è possibile registrare in Europa un marchio simile perché potrebbe generare confusione nel pubblico. La Corte di Giustizia del Lussemburgo ha risolto così il contenzioso dell'azienda italiana con un imprenditore tedesco che voleva registrare il marchio Kinderstraum. Cinema in chiusura, 18 film patrocinati dal programma Media della Commissione Europea figurano quest'anno nella selezione ufficiale del Festival Cinematografico di Cannes. Tra questi 18 film, 7 concorrono alla Palma d'Oro. Nel corso del festival, Andrulla Vassiliu, commissario europeo responsabile per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, consegnerà il premio Media al regista iraniano Asghar Farhadi. Ed è tutto per questa puntata di 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Pancieri e da Daniele Teruzzi in studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.